doing? Thinking, thinking, worrying, worrying, planning, planning. Notate cosa sta facendo. Pensando, pensando, o magari preoccupazione, preoccupazione. What was the third? I just know that. And then two notes, one to recognize and the second one to acknowledge. Poi usate due note, uno per accorgervi di quello che sta facendo e la seconda per riconoscere ciò che sta facendo. And then bring the attention gently back to the breath. Poi riportate l'attenzione delicatamente al respiro. And make a commitment to stay there. E prendetevi l'impegno di rimanere lì. Even now, if you're feeling a bit dull-minded or tired. Anche adesso, se vi sentite un po' la mente vuota o se siete stanchi. You can open the eyes a little, let the light in. Potete aprire gli occhi, lasciare entrare un po' di luce. If it gets worse, you can stand up. Se peggiora, potete alzarvi. So just placing the attention just on the sensations caused by the breath. Quindi ponete la vostra attenzione sulle sensazioni causate dal respiro. Rising, falling. Alzarsi, abbassarsi. if the mind is wandering. Se la mente divaga. So be quick to note it and bring yourself back to the breath. Siate rapidi nel riconoscerlo e riportatevi al respiro. Don't try to push the mind away. Non cercate di spingere via la mente. Just be very calm and note what it's doing. Siate molto calmi e notate cosa sta facendo. Worrying, worrying, planning, planning. Preoccuparsi, preoccuparsi, programmare, programmare. And just gently come back to the breath and make a determination to stay there. Poi tornate delicatamente al respiro e prendetevi l'impegno di restare lì, con l'attenzione. Feeling dull-minded or sleepy, just open the eyes, lift the spine, put more energy in the spine, open the eyes or stand up. Se vi sentite veramente un po' offuscata, assonnata, aprite gli occhi oppure mettete più energia nella spina dorsale, allungate la spina dorsale oppure alzatevi in piedi. Beginning to feel how the breath helps the mind to become silent. Cominciate a percepire come il sentire il respiro aiuta la mente a diventare più silenziosa. How the gentle feelings of the breath calm the heart. Come queste sensazioni delicate del respiro riescono a calmare il cuore. How they help us to keep the body still. Come ci aiutano a tenere fermo il corpo. Rising, falling. Alzarsi, abbassarsi. As we become more still, perhaps we can catch the very beginning of the in-breath and stay with it to the very end. Man mano che diventiamo sempre più fermi, forse riusciamo a cogliere l'inizio del respiro, dell'inspirazione, e riusciamo a restare col respiro fino alla fine. And to catch the very beginning of the out-breath and stay with it to the very end. E riusciamo a cogliere l'inizio della espirazione e restare insieme adesso fino alla fine. Every breath similar, but never the same. Ogni respiro è simile all'altro, ma non sono mai esattamente uguali. The body breathes. It doesn't need us to control it. Il corpo respira, non ha bisogno di noi per controllarlo. So from now on, whenever the mind wanders, just recognize, acknowledge what it's doing, and bring the attention back to the breath. Start again. D'ora in poi, ogni volta che la mente divaga, accorgetene, riconoscete quello che sta facendo, e poi delicatamente riportate l'attenzione al respiro. And start again. E ricominciate. Feeling sleepy or tired, keep making the effort. Se vi sentite assonnati o stanchi, continuate a mettere lo sforzo. Lift the spine, open the eyes, stand up. Quindi raddrizzate la spina dorsale, o aprite gli occhi, o alzatevi in piedi. But now, as it were, we can open up to that global awareness. Adesso possiamo aprirci a quella consapevolezza globale. We might be drawn by a sound. Forse siamo attirati da un suono. The song of a bird. Il canto di un uccello. We're not interested in the bird, we're in the process of hearing. Non ci interessa l'uccello, siamo nel processo dell'udire. Hearing, hearing. Udire, udire. The attention is right there at the eardrum. L'attenzione è proprio lì, nell'orecchio. If it's a sensation or feeling in the body, se c'è una sensazione nel corpo, caused by the body or by an emotion, può essere causato dal corpo oppure da un'emozione. If it draws our attention, we go there, we feel it. Se attira la nostra attenzione, allora noi ci andiamo, lo sentiamo. We feel the texture of it. Proviamo a sentire come è fatto, diciamo, la consistenza. And we use a simple noting word. E utilizziamo una semplice nota mentale. Heat, burning, burning, tight, tight. Quindi calore, bruciore, bruciore, o tensione, contrazione. But remember, the attention is always towards the sensation or feeling. Ricordate che l'attenzione è sempre rivolta alla sensazione. And if the mind wanders, well, we just note it and begin again with the breath. Se la mente divaga, la notiamo e poi ritorniamo di nuovo al respiro. Rising, falling. Alzarsi, abbassarsi. can we see how everything we're experiencing is arising and passing away. Riusciamo a vedere come qualunque cosa che stiamo sperimentando sorge e passa. Constantly changing. Cambia costantemente. Can we see how when something unpleasant arises, we tend to resist it or turn away from it? Riusciamo a vedere come quando sorge qualcosa di spiacevole, o mettiamo una resistenza adesso, oppure ci allontaniamo. So we have to note that also. Anche questo lo dobbiamo notare. Resisting, resisting. Resistere, resistere. How when something is pleasant, we're drawn towards it, we want to indulge it. Notiamo anche come quando qualcosa è piacevole, noi ci sentiamo attirati, vogliamo indulgere in questo. We want to keep it, we want to make it grow. Vogliamo trattenerlo, vogliamo farlo crescere. So noting, indulging, indulging. Quindi possiamo notare, indulgere, indulgere. When we practice Vipassana, we access a position within ourselves of an observation post. Quando pratichiamo la Vipassana, noi assumiamo una posizione interiore di un osservatore di noi stessi. An observation post. Quindi una posizione di osservazione. Mm. From here we can observe and feel and intimately experience. Da qui noi possiamo vedere, osservare e esperire in maniera profonda. Whatever is arising in the body, sensations. Qualunque cosa che sorga nel corpo come sensazioni. Or in the heart as feelings. Oppure delle emozioni, delle sensazioni nel cuore. Or in the mind as images and thoughts. Oppure qualunque cosa che sorga nella mente sotto forma di immagini o di pensieri. And when we're in this position, we're not interfering. Quando assumiamo questa posizione, non interferiamo. We're not controlling. Non stiamo controllando. So the body just manifests its sensations, the heart its feelings, and the mind its images. Quindi il corpo manifesta le sue sensazioni, il cuore le sue emozioni, possiamo dire, e la mente le sue immagini, i suoi pensieri. So now, for these last few minutes, adesso per questi ultimi minuti, just watch, just feel, just experience intimately. Quindi semplicemente osservate o sentite, esperite in maniera intima. Whatever draws the attention within the field of awareness. Qualunque cosa che attiri la vostra attenzione all'interno di questo campo di consapevolezza. Don't do anything. Non fate nulla. When we come to the end of a sitting, it's good to reflect for a moment. Quando giungiamo alla fine di una meditazione seduta, è bene riflettere per qualche minuto. How diligent were we at bringing ourselves back to the present moment? Quanto siamo stati diligenti nel riportarci al momento presente? Or were we lazy? O siamo stati pigri? If we thought we did well, we should congratulate ourselves. Se crediamo di essere stati bravi, di aver fatto bene, dovremmo congratularci. If we think we could do better, we should encourage ourselves. Se pensiamo che avremmo potuto fare di meglio, dovremmo incoraggiarci. There's no need to criticize ourselves. Non c'è motivo di criticarci. How did we deal with the various physical and mental states that arose? Come abbiamo gestito tutti gli stati difficili sul piano fisico, mentale, che sono sorti? Were we skillful? Could we have been more skillful? Siamo stati abili? Avremmo potuto essere più abili? You can choose just one of them. Potete sceglierne anche solo uno. So pain in the knees or sleepiness. Dolore alle ginocchia o la sonnolenza. If we thought we were skillful, we should congratulate ourselves. Se pensiamo di essere stati abili, dovremmo congratularci. If we thought we could be more skillful, we should encourage ourselves. Se pensiamo che avremmo dovuto essere più abili, dovremmo incoraggiarci. Which of the three characteristics of existence was most prominent for us? Quale delle tre caratteristiche dell'esistenza è stata più prominente, più evidente per noi? Was it the sense of impermanence? È stato il senso di impermanenza? Or was it the way that we react with wanting and not wanting? È stato il modo in cui noi reagiamo, volendo qualcosa o non volendo qualcosa? Or was it that sense that everything is not under my control? Oppure era piuttosto quel senso che non c'è nulla che è sotto il mio controllo? It's also good to make a determination for the next sitting or a general determination to maintain mindfulness. È bene esprimere un buon proposito per la prossima seduta, oppure il proposito di mantenere una costante consapevolezza. So to practice the metta, we need to give our legs a little break, so we'll stand up. Per praticare la metta dobbiamo dare un po' di pausa, diciamo, respiro alle nostre gambe, quindi possiamo alzarci in piedi. So rise very slowly, be aware of all the actions, use little noting words. Quindi alzatevi molto lentamente, notate tutti i movimenti, usate queste parole, queste note mentali. Do they have the handouts for Metta? No. I thought you said you didn't need them. Or shall I?